29. Un volo d'anatre attraversava le nuvole, una in coda all'altra, punta di freccia alla ricerca dell'orizzonte. Il conte di Warwick considerò come quegli uccelli avessero veduto molte più terre di lui. Un paio d'ali poteva più dei quarti di nobiltà e della ricchezza. La natura impone a certe specie la migrazione, anche a certi uomini forse. Altri sono sedentari. Le catene che li legano ai luoghi sono pesanti, rugginose, solo in certi casi dorate. Warwick provò invano a contare gli uccelli, troppo mobili. Il piacere della gregarietà non li avrebbe mai abbandonati. Sarebbero rimasti un branco d'anatre fino alla morte, fino alla prossima generazione d'anatre, e i loro simili non sarebbero mai venuti loro a noia. Il conte di Warwick studiò l'uomo che posava per il signor Rumney. Diadema di piume, camicia bianca, bracciali d'argento a fermare le maniche. Il ritratto del principe Thayendanegea sarebbe rimasto nella sua tenuta di campagna, eloquente testimonianza della loro amicizia. «Siete in buone mani, signor Brent. Il signor Rumney riesce a infondere la luce della vita negli occhi dei modelli. L'anima traspare in punta di pennello». La voce di Warwick era piana, senza ombra d'eccitazione. Il pittore si schermì. Era il gioco delle parti a imporre la reazione. Rumney era ben consapevole della propria maestria. Ogni gesto rarefatto e ammantato di sacralità. Stemperare i colori, traguardare il bersaglio da ritrarre col pennello, stendere vapori di pigmenti diversi sulla tela, tocchi rapidi come la lingua di un cucciolo che lecchi una ciotola di latte, pennellate ampie come la corrente di un fiume quando raggiunge la pianura. «Abbiamo quasi finito», disse il pittore. «Prego, sollevate un po' col mento, signor Brent». Warwick tornò a guardare fuori. La luce del pomeriggio era terza, preannunciava la bella stagione. «Avete mai sofferto di malinconia, signor Brent?» «Io sì. Mi prende sempre a quest'ora. In tempi antichi si sarebbe detto che la mia vita è sotto il dominio di Saturno. Esiste un rimedio indiano per questa disposizione d'animo?» Joseph rispose con sicurezza. «La caccia. Giacere con una donna. Giocare con i bambini. Fumare la pipa. Danzare. Oppure sedersi a guardare l'orizzonte. È strano, ma cose diversissime sembrano curare lo stesso male». Warwick annuì. «Ditemi, non avete mai nostalgia? A cosa pensate quando la mente torna verso casa?» Davanti a Joseph comparvero i volti di Susanna e dei bambini, la fattoria, Kanoyaharie, Molly. «Al respiro di mia moglie di notte accanto a me, alla pelle dei miei figli, agli odori, profumo di mirtillo nei boschi lungo il fiume, mais abbrustolito e sciroppo d'acero, odore di buone cose nell'emporio di mia sorella». Warwick sembrava sul punto di piangere. «Se appartenessi a un posto differente da questo, anch'io avrei nostalgia. Vi confesso di provare qualcosa di molto simile alle volte. Nostalgia dell'ignoto, del non visto, del non immaginato. Nostalgia delle vite altrui che hanno incrociato la mia». «Siete stato generoso con noi», disse Joseph. «In cambio avete preteso niente più che la mia immagine dipinta. Questo è...» cercò la parola giusta, in un affratto della mente, «lusinghiero. Spero un giorno di sdebitarmi, avendovi ospite in America. Sareste il benvenuto. Cureremmo la vostra malinconia». Warwick sogghignò. Vide se stesso attorniato da un branco di donne e bambini indiani, ma subito si accorse di non sapere come rappresentarseli. L'unico indiano che aveva conosciuto era davanti a lui. La commozione serrò la gola e inumidì gli occhi. Parlò con voce roca. «Sapete, in vita mia non ho mai viaggiato. Lontano da quest'isola mi sentirei perduto. Io e Londra siamo due vecchi amanti bisbetici. Ci punzecchiamo, ci concediamo ancora fugaci tradimenti, ma non ci lasceremo mai». Si riscosse e chiese al pittore di ruotare il dipinto in modo da poterlo rimirare all'ultima luce del giorno. Rumney eseguì. «Avete superato voi stesso», commentò Warwick, dopo un attimo di silenzio. «Ecco l'anima dell'eroe americano». Il pittore fece un inchino riverente e si congedò. Sarebbe tornato l'indomani, per gli ultimi ritocchi. Quando se ne fu andato, Warwick notò l'aria perplessa di Joseph davanti al quadro. «Credete che abbia mentito?» L'indiano lo guardò. «Credo di non essere io», indicò il dipinto. «Quell'uomo è un bianco come voi». L'uomo ritratto era un americano irreale. La pelle e i tratti del viso erano quelli di un europeo. Solo gli occhi appartenevano a Joseph Brent, vivi come fiamme. «Al contrario, signore, l'artista ha colto l'essenza, il concetto, l'idea stessa che voi incarnate». Sfiorò rapito la tela. «Vedete, sotto i panni del capo indiano appare il gentiluomo. La nobiltà non è prerogativa del nostro vecchio mondo, c'è qualcosa di più antico, di primigenio, che non dipende dai blasoni. È la nobiltà d'animo, la virtù che fu degli ateniesi e degli spartani e che si ritrova in questo volto. Si girò a guardare Joseph. In voi. Fece un inchino, che Joseph ricambiò. Fra pochi giorni partirete, riprese il conte. Almeno avrò una traccia tangibile del vostro passaggio tra queste mura. Forse, quando la guerra sarà finita e l'alleanza tra le nostre nazioni consolidata, allora ci rivedremo, disse Joseph. Forse, commentò il conte in tono amaro. O magari saremo troppo cambiati per ricordarci di cosa siamo ora. Scacciò il manto tetro che l'aveva avvolto e si riscosse. Credo che a un guerriero sia consuetudine regalare arnesi del mestiere. Si avvicinò a un mobile ed estrasse una cassetta di legno lunga e stretta. Sollevò il coperchio in modo che Joseph potesse vedere il contenuto. Due pistole dal manico interziato erano deposte su un panno di velluto verde. Sono state usate soltanto una volta da mio zio in un duello. L'onore del casato venne difeso da un tiro di precisione che fa ancora parlare di sé nelle riunioni di famiglia. Sorrise. Sono certo che ne farete un uso migliore di quanto potrei farne io. Joseph accolse il regalo con un gesto sicuro. Accarezzò le pistole, le impugnò, ne saggiò il peso. Quando spareranno contro i nemici del re, sarà come se foste voi a fare fuoco. Per fortuna no, disse il conte. La mia mira non compete con quella di mio zio buonanima. Non colpirei una vacca che entrasse dalla porta, ma vi ringrazio lo stesso del pensiero. Joseph non seppe cosa aggiungere. Lanciò ancora un'occhiata al suo doppio, che scrutava la scena dal cavalletto. Poi strinse con vigore la mano del conte.